Il 6 e il 7 maggio alle amministrative, la sinistra per Como candida a sindaco Donato Supino. In lista come consiglieri ci sono anche Lina Annoni, Giancarlo Brenna, Cesare Bottai, Domenico Caccavari, Luigi Calandra, Nayan Cavadini, Massimo Cavadini, Andrea Cazzato, Assunta Cocco, Ivana Costa, Raffaele Faggiano, Anna Fontana, Luca Frosini, Roberto Giacò, Silvia Induni, Ilenia Luraschi, Renato Malacrida, Cesira Monteleone, Cosimo Moscato, Luigi Muti, Franco Paolucci, Loredana Peracca, Michele Picardo, Salvatore Punzio, Stefano Alessandro Rognoni, Ilaria Romeo, Maurizia Sala, Pasquale Sarrapocchiello, Mirko Serpa, Edoardo Spolidoro, Antonio Tajana e Maria Giovanna Tamburello. Il 6 e il 7 maggio alle amministrative, la sinistra per Como candida a sindaco Donato Supino.